Radio Wombat, Slick Chick, mercoledì 23 maggio e una nuova puntata di Slick Chick che vi annuncio subito, la metto subito così, essere registrata, sì, perché oggi 23 maggio appunto ricorre l'anniversario della nascita di Paolo Poli e io sono andata a festeggiarlo, cioè andrò oggi, ora che lo sto registrando, però in realtà quando lo sentirete voi sarò già andata, vabbè, non mi incasino con Ritorno al Futuro, ma insomma vado a vedermi uno spettacolo teatrale alla Pergola che è proprio in qualche modo celebra Paolo Poli con un suo degno compare David Bowie, che è una coppiata strana, vero? Però chissà cosa ci riserverà questo spettacolo, io ho delle buone speranze. Quindi, insomma, non potevo esserci in diretta, vi ascoltate una registrazione, beh, insomma, comunque penso vada bene lo stesso, e scaletta non dedicata a Paolo Poli, anche se sarebbe bello, veramente bello, un giorno chissà, ma invece scaletta dedicata ai libri, come forse se ne poteva evincere dal titolo del primo brano che ci siamo ascoltati. Se l'avete ascoltato bene, ve ne sarete accorti. You Can Judge a Book by Its Cover. Da chi avete sentito che lo cantava era Bo Diddley, ma c'era un super gruppo alle spalle di questo pezzo, perché oltre a Bo Diddley c'era anche Muddy Waters e Little Walter, nonché un'altra stuolo di musicisti incredibili. L'album è appunto Super Blues del 1967 e è un album venuto fuori da appunto questo super gruppo, chiamiamolo così, composto da questi tre giganti del blues, del rock and roll, eccetera eccetera, e tra l'altro questo album è stato seguito poco dopo da un altro album chiamato il Super Super Blues Band che tra l'altro aveva sostituito al posto di Little Walter c'era Howlin' Wolf, quindi insomma, e questa ci serviva un po' come introduzione, non perché il brano di per sé fosse tratto da un libro assolutamente, ma insomma il titolo perlomeno, You Can Judge a Book by Its Cover, direi che poteva essere un'ottima copertina appunto di questa trasmissione, di questa puntata dedicata appunto ai libri, scrittori, scrittrici e alla letteratura in generale, un po' per fare da ponte con la fiera, mi viene sempre da dire fiera perché chissà, comunque il festival della letteratura sociale che c'è stato in Polveriera lo scorso fine settimana, di cui vi abbiamo dato conto direi in maniera veramente esaustiva e molto professionale, e anche per fare da ponte con la trasmissione della Fuga del Gatto che ci sarà domenica prossima, dedicata anche questa, ve lo anticipo, ai libri, quindi insomma molto culturale Radio Wombat questa settimana. Proseguiamo nella nostra scaletta che è ricca di pezzi, chiaramente sui libri e sulla letteratura ci sarebbe da dire 2,5 milioni di cose, potrei fare 20 scalette, non una sola, ho dovuto fare quindi una cernita abbastanza stretta. E oltre Bo Diddley e gli altri, sono incappata nei Chumbawamba. Chumbawamba, l'album Ready Mates del 2002, il pezzo che ci stiamo per ascoltare è After Shelley, riferendosi a Percy Shelley, che è un poeta che io amo particolarmente, ma in particolare i Chumbawamba citano Shelley non letteralmente, cioè nel senso non si parla della vita di Shelley, che pure varrebbe 20 canzoni, ma di un episodio in particolare, ovvero durante la carestia delle patate del 1845 il Parlamento inglese decise chi avrebbe mangiato e chi no, cioè andò proprio esattamente così. E oltre 1 milione di persone morì di fame, le riserve di cibo irlandesi vennero esportate forzatamente in Inghilterra. E a Dublino, fra l'altro, se ci siete stati l'avete visto, c'è un monumento che ti toglie veramente il fiato, dove ci sono uomini, donne e bambini scarnificati dalla fame che guardano oltre il mare verso l'Inghilterra. Le parole di questa canzone, appunto, di After Shelley dei Chumbawamba, sono tratte da una poesia di Percy Shelley, che non parla esattamente di questo episodio, anche perché Percy Shelley era morto 20 anni prima, ma tra le mille altre cose che aveva da dire Percy Shelley, Ben conosceva i lavoratori irlandesi e la brutalità del governo britannico, quindi direi che si poteva citare e ci si può rifare alle sue parole molto bene per raccontare queste cose. Anybody can press a button and blow a ship up. Anybody can use an atom bomb. Anybody can pick up a big whip and whip you. Anybody can stick a knife into you. Anybody can pull a trigger. But where's the man with the character that can take a punch on the nose and keep his temper and keep control of himself? Yeah. Tra l'altro, oltre Percy Bysshe Shelley, ci sarebbe veramente da citare a man bass proprio, cioè proprio tantissimo, anche Mary Shelley, di cui ricorre un altro anniversario, perché quest'anno sono 200 anni dalla pubblicazione del suo romanzo, probabilmente più famoso, Frankenstein. Anche se poi in realtà appunto Mary Shelley ha scritto tante altre cose che dovremmo andare a riscoprirci, ma vabbè, citare canzoni, brani musicali tratti da Frankenstein sarebbe stato veramente troppo facile, e quindi me la riservo per un'altra volta. Magari faremo una puntata dedicata soltanto a Frankenstein, chissà. E invece proseguiamo con tutt'altre cose. E arriviamo ai Coil, un album Horse Reservator del 1986, che contiene questa ostia, The Death of Pasolini, un brano proprio dedicato al, come se ne evince dal titolo, proprio alla morte di Pasolini, e quindi a Ostia, che tra l'altro si apre con uno stridore di cicale, di grilli, che ricordano appunto le sere estive, e che quindi portano subito ad Ostia e a quella terribile notte. In un altro album, Songs for a Child, non dei Coil, ma un album vario, praticamente un album che è stato dedicato completamente a Pierpaolo Pasolini, ed è contenuto questo, tra gli altri, questo brano Ostia dei Coil che ci andiamo a ascoltare, ma ci sono anche altri 13 brani di vari altri autori dedicati proprio a Pasolini, ma noi ci concentriamo in questo momento sui Coil. And the car Dane coast of Ostia. Ne valeva la pena secondo me, e adesso dopo i Coil ci incamminiamo verso un altro libro, in particolare Paradise Lost, il paradiso perduto di Milton, un grande classico direi. Nick Cave and the Bad Seeds ne hanno parlato, o perlomeno si sono ispirati a questo classico con il loro Red Right Hand dall'album Let Love In del 1994. Ha ispirato appunto questo brano a Paradise Lost di Milton, tra l'altro. Vabbè, giusto per cadere dalle stelle alle stalle, in qualche modo questo brano lo riconoscerete probabilmente, perché fa anche parte dei titoli di apertura di Peaky Blinders, una serie su una banda irlandese che ha fatto il bello e il cattivo tempo a inizio secolo, e beh, insomma, ottimi titoli di apertura secondo me. Paradiso Perduto, dicevamo, pubblicato nel 1667 nella bellezza di 10 volumi, anche se poi in realtà dopo è stato in qualche modo un po' rivista la pubblicazione e è stato spezzato in maniera diversa, per cui ne sono venuti 12. Il poema tratta di un racconto, cioè il racconto ebraico, cristiano, islamico, da tutti e tre i punti di vista, della caduta dell'uomo, ovvero la tentazione di Adamo ed Eva da parte di Lucifero e la loro cacciata dal giardino dell'Eden, come ben saprete. L'obiettivo di Milton, che poi viene dichiarato proprio nel primo libro, è quello di svelare all'uomo la provvidenza eterna e spiegare il conflitto tra appunto la provvidenza eterna e il libero arbitrio, ovvero spiegare la vendetta divina poi in realtà, perché come ci insegnava anche Benigni, in tutto Benigni, se ho capito, mi dici fai che ti pare perché c'è il libero arbitrio, però poi ti incazzi se non faccio la cosa giusta.

scenes. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Molto luciferina questa qui di Slick Chick di oggi, devo dire. E appunto Nick Cave and the Bad Seeds ci hanno raccontato questa Red Right Hand, ma proprio partendo dai titoli di apertura di Peaky Blinders, per l'appunto, i creatori di questa serie hanno chiesto a diversi altri musicisti di interpretare questo brano. Quindi in realtà, se poi vi è piaciuto particolarmente, potete ascoltarvi varie versioni, tra cui PJ Harvey, Iggy Pop anche, e tante altre, insomma. Quindi, però, io ho scelto il classicone. E sempre di classiconi trattiamo e parliamo, e sempre di temi luciferini, qui direi che proprio siamo all'apoteosi dei temi luciferini, perché, non Diamanda Galas come forse potevate pensare, ma no, i Rolling Stones con l'intramontabile Sympathy for the Devil, del 1968, attenzione, contenuto nell'album Beggar's Banquet. Mi scusino se nella foga del discorso mi sono dimenticato di presentarmi. Ecco il mio biglietto da visita, il passaporto e l'invito a venire a Mosca per una consulenza, disse gravemente lo sconosciuto, fissando i due letterati con lo sguardo pungente. Così si presenta Lucifero, infatti, nel Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. E appunto Sympathy for the Devil è proprio ispirato a sua volta dal Maestro e Margherita di Bulgakov. Nel corso di un'intervista del 95 rilasciata a Rolling Stones, cioè la rivista Rolling Stones omonima direi, Jagger disse: penso che l'ispirazione venne da una vecchia idea di Baudelaire, credo, ma potrei sbagliarmi, a volte quando rileggo i miei libri di Baudelaire non la ritrovo, ma era un'idea che rubai a uno scrittore francese, ne presi solo un paio di frasi e le ampliai, la scrissi come una sorta di canzone alla Bob Dylan. In realtà appunto Mick Jagger non si ricordava assolutamente niente, ha fatto un gran casino, non vogliamo sapere il perché, il per come, probabilmente era stato abbastanza confusionale negli anni. La tematica del brano è palesemente presa da appunto il Maestro e Margherita. Maestro e Margherita pubblicato tra il 1966 e il 67, dove il diavolo viene descritto come un affabile gentiluomo dell'alta società moscovita, e basta leggersi un po' il testo di Sympathy for the Devil per vedere che sì, proprio di quello si tratta. Vi prego, concedetemi di presentarmi, io sono un uomo ricco e raffinato, sono stato in giro per tanti e tanti anni, ho rubato anima e fede di molti uomini, ero presente quando Gesù Cristo ebbe il suo momento di dubbio e sofferenza, ho voluto essere del tutto sicuro che Pilato si lavasse le mani e segnasse il suo destino. Piacere di incontrarvi, spero che indovinerete il mio nome, ma ciò che vi imbarazza è la natura del mio gioco. Giravo dalle parti di San Pietroburgo quando vidi che era tempo di un cambiamento. Ho ucciso lo zar e i suoi ministri. Anastasia ha gridato invano. Ho guidato un carro armato. Ho avuto il grado di generale quando la guerra lampo divampò e i cadaveri puzzavano. Guardai con gioia quando i vostri re e regine si combatterono per 10 decadi per gli dèi da loro inventati. Urlai forte: chi ha ucciso i Kennedy? Quando in realtà siamo stati voi e io. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. And you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades. When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Nature of my name. Ah, yeah. Get down here. Sympathy for the Devil, e proseguiamo sempre in questa scaletta cattivella parlando di libri. Evidentemente i musicisti hanno scelto quelli più furbetti, e così hanno fatto anche i Velvet Underground con la loro celeberrima Venus in Force. L'album è il loro primo, The Velvet Underground Nico del 1967. E Venus in Force, lo dice anche il titolo, è ispirata proprio dalla Venere in pelliccia di Leopold von Sacher Masoch. Bacia lo stivale di cuoio lucido nell'oscurità. Lecca le cinghie, il laccio che ti sta aspettando. Diletta signora, colpisci e abbi cura del suo cuore. La canzone, la cui composizione risale al 1965, è infatti obiettivamente la prima descrizione esplicita di un rapporto sadomasochista servo-padrona, in questo caso mai apparsa in un brano di musica rock, ma insomma probabilmente mai apparso nella musica in generale, quantomeno non in questa forma così esplicita. Venere in pelliccia, invece, il libro, il romanzo, pubblicato nel 1870, fa parte della raccolta L'eredità di Caino, all'interno del primo volume della serie dedicata all'amore, che appunto in cui Leopold, il nostro Leopold, scrive appunto la sua Venere in pelliccia. Il romanzo è intriso di riferimenti autobiografici piuttosto palesi proprio. La protagonista, Wanda von Dunajew, era nella vita reale Fanny Pistor, e della stessa era una scrittrice che aveva conosciuto von Sacher Masoch per un parere letterario, un consulto letterario, beh, si dice sempre così. Firma a quel punto, cioè dopo averlo conosciuto, firma insieme a lui un contratto che lo rende, cioè che rende lo scrittore appunto suo schiavo. Tra le condizioni c'era proprio quella che lei indossasse il più spesso possibile una pelliccia, specialmente nelle occasioni in cui si mostrava crudele. Leopold von Sacher Masoch, da qui ovviamente poi deriva il termine masochismo, venne finì male, onestamente. Beh, insomma, si poteva anche un po' dedurre dalla sua storia. Ma venne ricoverato dalla moglie nel manicomio di Mannheim nel 1895, stesso anno in cui poi poco dopo viene anche annunciata la sua morte. In realtà alcuni dicono che Leopold in realtà sarebbe morto nello stesso manicomio, ma 10 anni più tardi. Molto misterioso, dunque. She shall wear her mind. kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Lightly, Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Radio Wombat, Slick Chick, come tutti o quasi i mercoledì sera alle 21 e proseguiamo con un altro tenore completamente. Arriviamo ai Divo. I Divo con Wipe It dall'album Freedom of Choice del 1980. Wipe It è ispirato a Gravity's Rainbow, l'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon. Ma in realtà l'arcobaleno, se l'avete letto questo libro, ovviamente già lo sapete. Comunque l'arcobaleno del titolo assolutamente non ha niente a che vedere con unicorni e meravigliosi paradisi, in realtà non è nient'altro che la parabola, ovvero la curva descritta da un missile dal lancio al momento in cui colpisce un bersaglio. Il romanzo infatti è incentrato quasi totalmente sul V2, il missile a lungo raggio costruito dalla Germania nazista al termine della Seconda Mondiale e utilizzato soprattutto per colpire Londra, i famigerati bombardamenti V2. Nel dopoguerra la tecnologia missilistica tedesca, cosa che forse non tutti sanno, viene usata da Stati Uniti e Unione Sovietica nelle imprese spaziali, ma soprattutto nella costruzione dell'arsenale nucleare della Guerra Fredda. Non a caso una delle menti del programma missilistico tedesco, Werner von Braun, passò a lavorare per la difesa degli Stati Uniti e infine per la NASA. E in particolare sia Pynchon che i Divo, in questo brano e Pynchon nel suo libro, beh anche negli altri direi forse, descrivono la parabolica evoluzione dell'umanità, o per dirla e per essere precisi e dirla per bene a modino, per la sua devoluzione, ecco infatti da cui Divo. Da Whip It dei Divo arriviamo a degli altri burloni della musica, ovvero i Ramones con Pet Sematary, pubblicata nell'album Brain Drain del 1989 e tratta dal libro di Stephen King, Pet Sematary appunto. Presente poi, scritta praticamente apposta per la colonna musica della versione italiana del film Cimitero i Vivente, così tradotto in italiano, chissà come mai, ispirato appunto anche questo film al romanzo di Stephen King. Nel film c'era fra l'altro anche Sheena is a Punk Rocker, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Ma Pet Sematary è un romanzo del 1983, quindi di qualche anno prima, ma non di tanti anni prima, di Stephen King, e proprio a detta dello stesso autore la storia si ispira in realtà a The Monkey's Paw, un racconto popolare meglio conosciuto nella versione scritta da William Jacobs, e insomma di cimiteri per animali e risurrezioni finite male, di questo si parla. Under the arc of the weather stained boards, ancient goblins and warlords come out the ground, not making a sound. The smell of death is all around. And the night when the cold wind blows, no one cares and nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't wanna sudden I feel this chill. A victory squeezing flesh running away. Skeleton dance, I curse this day. And the night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. Me shout. I don't wanna be buried in a pit cemetery. Beh, ve ne sarete accorti, non è che i Ramones erano improvvisamente impazziti più di quanto non fossero, non era la loro versione originale, ma avevo scelto una versione rockabilly dei Top Cats, ma mi ero dimenticata di annunciarvelo. Beh, dopo tutta questa scaletta, siamo quasi alla fine, anche se qualche pezzo ancora ci manca, arriviamo ai Therapy. Sì, anche i Therapy si ispirano ai libri, con Bad Excuse for Daylight dall'album Crooked Chamber del 2009, perché il cantante Eddie Cairns ha raccontato che l'intero album Crooked Timber, appunto, invece che il solito strofa ritornello, è stato registrato basandosi su quello che sentivano via via che sentivano musiche, cose, ascoltavano diversa musica di diversi generi, si lasciavano ispirare a una sorta di flusso continuo e da lì è nato Crooked Timber, appunto, l'album. Mentre componevano in particolare Bad Excuse for Daylight, stavano leggendo un libro che è un bellissimo, appassionante libro sulla musica del Novecento, ovvero Il resto è rumore di Alex Ross. Libro veramente bello che, se non avete letto, vi consiglio assolutamente. È una bibbia della musica classica e contemporanea, ma con incursioni molto importanti sul jazz e via via. Insomma, una bella pietra miliare. A un certo punto nel libro si racconta e si viscera la sagra della primavera di Stravinsky. I Therapy, quindi, se l'ascoltate, non si sa se fosse la prima volta, ma insomma, comunque presero lo spunto per ascoltarsi la sagra della primavera di Stravinsky, rimasero affascinati dalle ossessive pulsazioni di violoncello che esistono in questo brano e decisero di provare a replicarle in qualche modo con la chitarra. We'll be right back. feel less. Ecco, ci mancano circa tre brani alla fine di questa scaletta. Il terz'ultimo è Is That All There Is di Peggy Lee. Peggy Lee, 1969, e la canzone è basata su un racconto di Thomas Mann, racconto chiamato Disillusione in italiano, anche se in realtà, se non ho capito male, in realtà non è mai stato tradotto in italiano. Beh, ci sarebbe da aprire delle parentesi lunghissime su quanto poco sia stato tradotto della letteratura internazionale in italiano. Generalmente, per ragioni meramente commerciali, è stato scelto sempre solo le cose più famose, più celebri, e ci siamo lasciati indietro tantissime cose meravigliose. Basta leggere velocemente, dare un'occhiata veloce al testo di Is That All There Is di Peggy Lee per capire che veramente la gran parte del testo è proprio stato preso direttamente dal racconto. La musica, tra l'altro, invece è stata composta da Mike Stoller ispirandosi, quantomeno, e si sente proprio pesantemente ispirandosi a Kurt Weill e alle opere di Bertolt Brecht. E la canzone in particolare è la storia di una donna annoiata, depressa, disillusa, appunto, a tal punto da reagire ad ogni spettacolo della vita, bello o brutto che sia, dicendo: beh, tutto qui? I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all. Then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment, 'cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then dancing, let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. Radio Wombat, vi ricordo i social Wombat, in particolare il sito wombat.noblogs.org, da cui ci potete ascoltare in diretta streaming seguendo il palinsesto che troverete all'interno del sito, oppure potete scaricarvi i podcast, oppure accendere a caso lo streaming e ascoltare repliche o dirette o bobina, a seconda di quello che trovate, così come si fa normalmente quando si ascolta una radio. E purtroppo ancora siamo in attesa di poter ripristinare le nostre trasmissioni anche in onde mediocri, ma per ora soltanto via web, soltanto l'internet ci resta per comunicare con voi. E poi la casella di posta wombat@insiberia.net, a cui potete scriverci. Allora, ultimi due pezzi di questa scaletta di Slick Chick di oggi, dedicata ai libri, alla letteratura come fonte di ispirazione per la musica. Françoise Hardy, in particolare, ci ascoltiamo la sua di interpretazione di un grande classico non suo, Les Feuilles Mortes. Il brano è stato composto da Joseph Cosma su versi di Jacques Prévert. In realtà è stato composto proprio per la colonna musica del film Mentre Parigi dorme del 1946, diretto da Marcel Carné, resa celebre poi dall'interpretazione di Yves Montand al suo debutto cinematografico, e che però interpreta cantando anche questa intramontabile canzone, divenuta poi in breve tempo uno standard jazz. Jacques Prévert, poeta surrealista di ribellione e libertà, uno scrittore per il teatro e sceneggiatore per il cinema, proprio per questo forse la poesia di Prévert è una poesia scritta per essere letta. Da qui non ci si stupisce che una delle sue poesie sia prestata così bene alla forma musicale. E poi, fra l'altro, anche Autumn's Leaves, la versione inglese, è stata usata moltissimo, ma chiaramente qui ci ascoltiamo l'originale in francese, interpretata però da Françoise Hardy. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Questa scaletta con il luciferino e stiamo un pochino piano piano tranquillizzandoci per accompagnarvi meglio al sonno, ma non preoccupatevi, non vi faremo addormentare con l'ultimo pezzo, che è Shakespeare Sisters degli Smith. Ovviamente non poteva non esserci, pezzo del 1985, il cui titolo si riferisce, al di là ovviamente di Shakespeare, che già da solo basterebbe a giustificare la presenza di questo brano all'interno di questa scaletta, ma il titolo si riferisce ad un saggio del 1929 di Virginia Woolf, intitolato Una stanza tutta per sé, A Room of One Own, mamma mia, oggi il mio inglese è terribile, in cui l'autrice esprime la frustrazione per le scrittrici del presente e del passato che hanno provato sulla loro pelle e per dimostrare un po' appunto questa frustrazione crea questo personaggio della sorella di Shakespeare, una donna che aveva la stessa creatività e talento del fratello William, ma qui mancava il successo e il supporto, scusate, del pubblico. senza la possibilità di scrivere le sue opere, perché la sua famiglia non le avrebbe mai concesso di accedere alla scuola, visto che all'epoca alle donne non era concessa un'istruzione, privilegio riconosciuto ai soli uomini. Allora la sorella di Shakespeare fugge da casa e tenta di trovare il suo sbocco creativo nel mondo reale. Presa dalla frustrazione, però, al termine della storia, ovviamente, la donna si uccide. E via così. E giusto per non lasciare niente al caso, Virginia Woolf ribatte: qualsiasi donna nata con un grande dono nel XVI secolo sarebbe certamente impazzita, si sarebbe uccisa o avrebbe terminato i propri giorni in qualche solitaria casa di campagna fuori dai villaggi, mezza strega, mezza maga, temuta e derisa da tutti. Questo è il triste destino della sorella di Shakespeare, in particolare raccontato dagli Smiths in una famosissima canzone loro. E con questo vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, non mancherò, sarò puntuale pure, magari azzardo anche questa promessa completamente a caso. E quindi a mercoledì prossimo, sempre su Radio Wombat con Slick Chick. Ciao ciao! Young ones grown and the rocks below say, throw your skinny body down.